fondo i cieli diventano più scuri e in bocca è solo rabbia e piove solo sabbia, le strade sui muri. C'è bisogno di gente molto forte per fare insieme il viaggio che inizia non sai dove e passa 100 porte. Noi che lasciamo tutto, noi per volare in alto, noi per cercare una città dove i cieli non sono mai più scuri, le strade hanno suoni e vedi sogni, immagini le strade sui muri. C'è bisogno di gente molto forte per fare insieme il viaggio che inizia non sai dove e passa 100 porte. Noi che lasciamo tutto, noi per volare in alto, noi per cercare una città che non ha tempo ma solo prati verdi, il cielo vibrazioni e la pioggia canzoni. Esiste solo sound, oh, oh, oh, oh. Esiste solo sound, oh.